La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Oggi sappiamo che vivrà, fino alla fine dei suoi giorni, nel faro di Capo Finisterre, all'estremo nord della Spagna. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Quassù al faro di Finisterre mi è arrivato un messaggio nella bottiglia, molto perentorio, che dice: ma tu perché ce l'hai tanto coi maschi? Che ti hanno fatto? A me niente. Non solo, ma non ce l'ho per niente coi maschi. Non ho contenzio spesso con loro. A parte che sono tanti, come si farebbe a odiarli tutti. E poi non odio per categorie, come non amo per categorie. Anzi, devo dire che i maschi che ho incontrato per me sono stati delle mamme. E provo una gratitudine profonda. E sono portata a tessere poemi, a intrecciare serti sulle loro belle teste. A cominciare da mio padre, che fu il primo maschio madre della mia vita. Fin da piccola mi piacevano i segni esteriori del maschio e in fondo sono rimasta al simulacro di allora, la foto del nonno nell'ovale, l'odore di tabacco forte, i baffi, le camicie, le scarpe. Non ho mai capito bene la mia identità sessuale, né ci tengo a capirla, però ho questa tenerezza per il maschio, perché poi, poveretto, ma chi è sto maschio che gli stiamo sempre a fare i conti in tasca, a saltargli addosso perché non tornano? In fondo è uno al quale nessuno ha fatto più una carezza disinteressata da quando aveva 10 anni. Teniamoli bene, sono preziosi e durano poco. In giro è pieno di vedove. C'è un film di Jean Renoir, un vecchio film in bianco e nero, un classico del cinema che si chiama La grande illusione, dove la tedesca che ha nascosto il soldato francese durante l'ultima guerra, quando lui va via gli dice: non sentirò più il tuo passo d'uomo per casa. Ecco, il maschio per me è quel passo. Voi слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят. Tutti si preoccupano della foca nana. E il maschio? Ma dove sono finiti i maschi, i veri seduttori, quelli per cui si muore? Sole o male accompagnate, semi congelate, tristi amazzoni, subiamo la vittoria. Ci tengo a dire che quando ci scagliamo contro la cultura maschile, la cultura della furberia, dell'assassinio, dell'appalto, non è certo contro ogni maschio. Tanto è spregevole quella cultura, tanto sono preziose le eccezioni. E quelle voglio cercare, con una lanterna paziente. Mi interessano i grandi caratteri, quelli che non butteremo mai via per nessun raptus femminista. Mi interessano quelli che ci rendono migliori. E poi non è vero, c'è questa favola che alle donne piacciono solo i mascalzoni. Ma non è vero. I mascalzoni sono noiosi, fanno sempre le stesse cose. Un mascalzone non può che pugnalarti alle spalle. I buoni, invece, sono una continua meraviglia. Ti stupiscono sempre. La furberia è stupida, conosce quelle tre mosse: bugia, tortura, tradimento. La bontà va contro ogni regola ed è un'invenzione. Non è mai andata di moda. Oggi più che mai buono significa fesso. Addirittura la parola oggi è stata scientificamente corrotta da quella ignobile stortura che è buonismo, che è inventata per delegittimare ogni slancio. La bontà invece è una forma superiore di intelligenza. Purtroppo però c'è questa epidemia che i maschi menano alle donne in maniera preoccupante. È diventata proprio una piaga sociale. Ecco qua una lettera, mi vergogno a raccontarlo, dopo un anno di convivenza ha cominciato a darmele di brutto alla prima lite e io mi sono fatta mettere sotto, perché in fondo quelle sue violenze mi impressionavano. Ma ora sono stufa, piena di lividi, e l'ho lasciato. E hai fatto molto bene. Però ci sono anche lettere diverse, eh? Ecco questa. So che molte donne prendono dei loro maschi botte da orbi. Chi è contenta, chi no. Ma insomma, i loro maschi gliele suonano. Io, che ho 63 anni e sono robusta come un lottatore, a mio marito gliel'ho sempre date, fin dai tempi del fidanzamento, perché avevo un carattere prepotente. Alla vigilia delle nozze abbiamo fatto schiaffi e cazzotti. Lui ce l'ha messa tutta per vincere lui, perché capiva che se perdeva quella volta lì, dopo era fregato. Infatti ha perso. Però mi è sposata. E dopo, ogni volta che sgarrava, io non ho avuto pietà. Sua madre veniva a lagnarsi. Io le dicevo: vada in palestra, mi affronti, mi sbatta per terra. Crede che sia piacevole per una donna vincere sempre. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. Mi è morto fra le braccia l'anno scorso, povero Mario, baciandomi le mani. Più gliele davi, più si affezionava. Ecco, e questa lettera è un punto che rivela l'altra faccia del maschio cattivo, di quello che non ci piace, del maschio sciocco, del maschio furbo, del maschio violento. Ed è il fatto che tantissimi maschi picchiano le mogli gratis e poi vanno a farsi menare a pagamento. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Stavo parlando dei maschi e di questa loro stravagante abitudine. I maschi picchiano le mogli gratis e poi vanno a farsi picchiare a pagamento da questa figura ambitissima nella prostituzione eterosessuale che si chiama la mistress. Oh, naturalmente ci vanno quelli che se lo possono permettere, perché la mistress costa molto cara. Poveri maschi, o sotto o sopra, alla pari non ci sanno proprio stare. La più contesa, la grande star della tortura, si chiama oggi Mistress Lucrezia. Tutto quello che so di Mistress Lucrezia e della Mistress lo debbo a questo film del regista Alberto D'Onofrio, che ha girato un film formidabile su di lei, filmando per giorni e giorni il paziente lavoro della Mistress nei sotterranei danteschi fra rantoli e schizzi di sangue. Bisogna dire che è uno dei pochi mestieri femminili in cui la bellezza non è richiesta. Non c'è discriminazione estetica. Per una volta conta il merito. E il merito è saper fare del male. Io ho visto molte mistress che sono delle gran brutte, ma non importa. Importa solo che siano capaci nel castigo. Neanche Mistress Lucrezia all'inizio è così bella, ma poi mano a mano lo diventa. Lei ha questi occhioni verdi, questo naso da aquila. E poco a poco ti sembra molto bella, vedendo il film di D'Onofrio, per la comprensione che dimostra di avere dell'uomo che ha di fronte. Voi слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят. Ora, бisogna dire, prima di vedere quel filmato, io avevo una visione da fumetto parrocchiale, veramente elementare, del rapporto sadomaso. Io mi immaginavo una donna in corsetto e autoreggenti, con la frusta in mano, e basta. Ma non è vero. La mistress infligge delle torture vere, terribili. Acqua gelata, sudare di lattice che aderiscono al corpo e fanno soffocare, lacci, mordacchie, maschere di ferro, guinzagli, uncini roventi. E poi, ogni volta che pianta un chiodo sul petto del cliente, o gli dà una scossa elettrica ai genitali, o gli fa saltare un dente, in più gli dà due ceffoni sul muso. E perché? Perché quella di Mistress Lucrezia è anche una scuola di buone maniere. Gli dà due schiaffi in più perché lo schiaffo non ha detto grazie. E mentre lo schiaffeggia, come una buona mamma, una maestra dice: allora, come si dice? E lo schiavo: grazie, Mistress Lucrezia. E lei altri due schiaffi, così impara. Ma quelli non imparano, perché lo schiavo ne vuole meritare il più possibile. Con quello che ha pagato, vuole approfittare fino in fondo. Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. Io ingenuamente avevo un'altra visione errata del lavoro della mistress. Credevo che ci si facesse un po' male e poi si facesse sesso, ci si congiungesse. Ma che? Mai e poi mai! I triboli inflitti dalla mistress provocano sì una grande eccitazione, e quello è lo scopo, ma la mistress non si tocca. La mistress è irraggiungibile, come una sovrana, come una dea, come la mamma. La mistress è una madre onnipotente alla quale affidarsi totalmente. Chi sono questi uomini che fanno migliaia di miglia per andare da lei a farsi fare i brani con sevizie sempre più spinte? Questi clienti sono per lo più spietati uomini d'affari che tutto l'anno danno ordini, seviziano le persone, sfruttano, tormentano e poi corrono dalla mistress per farsi tenere il guinzaglio mentre camminano a quattro zampe sui vetri o farsi marchiare a fuoco. Quando il cliente dice la frase rituale, che è l'inizio che autorizza le botte e le sevizie, «Mistress, sono stato molto cattivo, puniscimi», è vero, dice la verità, è stato cattivissimo, spesso ha sulla coscienza i morti sul lavoro, i delitti della finanza, ma invece di aggiustare gli impianti, oppure di pentirsi, di emendarsi, di dare magari ai suoi lavoranti un modo di vita più umano, no. Corre dalla mistress, spende per farsi castigare da lei e poi ricomincia da capo. Oh, alla fine del trattamento il film di D'Onofrio riprende le vittime, ridotte in uno stato tremendo. Ebbene, queste vittime sono indicibilmente grate. Allora D'Onofrio intervista lo schiavo, no? Ridotto uno straccio, sdruncicato, massacrato, dopo 7 giorni nelle mani di mistress Lucrezia. Ebbene, è estatico. Guarda al cielo con i suoi occhi vuoti in un'espressione di godimento senza pari e dichiara la sua felicità. Viene da un sovramondo, non è più qui ed ora. La mistress è uno strumento della sua elevazione. Oggi che tutto è parziale e smembrato, questo affidarsi mistico alla macelleria di mistress Lucrezia, in fondo, è un'atroce forma di assoluto. Che fai Barbara? Ti fai bella col mio lavoro? Accidenti, ma beccato, questa è la voce di Alberto D'Onofrio. Sì, è vero, io mi metto le penne del pavone e ho approfittato del tuo film per raccontare cos'è una mistress. Alberto, visto che sei qui, com'è stata questa esperienza? Com'è che ti sei calato nei sotterranei del dolore di mistress Lucrezia? Ti dico, la cosa che mi ha colpito di più è stata la sua timidezza, perché non me l'aspettavo. Insomma, come gli attori, timida fuori scena, poi in scena sì. Però. Ma tu come ti sentivi a stare lì davanti a questi uomini torturati? Qual era la tua? Perché poi non c'è un occhio neutro. Tu, no. Alberto D'Onofrio, come stavi? Ma guarda, io il primo giorno ho avuto un po' di problemi perché avevo paura di aver sbagliato il soggetto, cioè che tutto quello che stava succedendo davanti a me fosse troppo violento, troppo drammatico, perché insomma c'erano situazioni di sangue, di frustate, di urla. Poi per fortuna ho capito che potevo evitare di far vedere certe scene, ma solamente farle intuire, perché non era quello che a me interessava. A me interessava il rapporto di fascinazione tra la mistress e i suoi schiavi. Emergono i contenuti più interessanti, soprattutto perché queste persone cercano il rapporto di sottomissione con una donna anche affascinante, un rapporto che esclude completamente il sesso, permette solamente l'automasturbazione, no? Ah, questo è permesso? Sì, questo è permesso. È l'unica cosa permessa nel rapporto. Anche perché sennò schiattano, nel senso che tutta questa tensione erotica. Beh, certo. Senza una. Il godimento vero è la sottomissione psicologica, perché loro sostengono di non sentire il dolore quando arriva, proprio perché sono preparati a questo tipo di esperienze, proprio perché la mistress, se è una brava mistress, sa come dosare il dolore e come arrivare alla soglia di un dolore insopportabile. Ecco. Però non vorrei che le donne che ci hanno ascoltato adesso si montassero la testa e cominciassero a picchiare, a prendere a colpi di barra i loro mariti e amanti e via dicendo. Non vi montate la testa, perché è vero che qualche volta, anzi spesso, i maschi le strappano dalle mani, ma io vi sconsiglio di dargliele. Guai a trattarli male. Si affezionano e non se ne vanno più. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, è venuto a trovarmi mio cugino, del quale mio marito è geloso, non si sa perché. Ci ha lasciati soli, però con la porta aperta. Entrava ogni 5 minuti con una scusa. Ci ha trovati a un certo punto un po' troppo vicini e appena l'altro è uscito ha fatto una scenata di gelosia. Io protestavo, allora lui ha detto «te lo dimostro quanto sei bugiarda». Mi ha infilato una mano sotto il collan e poi ha detto trionfante che si capiva che mi ero eccitata durante la visita. Ha voluto subito fare l'amore. Io però mi sento violentata. Che diritto ha lui di fare come il poliziotto, in un modo così umiliante? Ma io non credo come un poliziotto, io credo come un amante. E credo anche che tu sappia benissimo che è un gioco erotico. Ogni riga della tua lettera ha questo accento della complicità in questo gioco molto semplice che vi siete inventati. Cioè, se l'ha inventato lui, ma l'ho giocata insieme e anche tu fai la tua parte. Io sono certa che questo racconto è uno dei mille che potresti farmi, tutti piccanti, tutti graziosi, tutti perfette piccole commedie che hanno una sola destinazione, il letto. Sono giochi innocenti, ai quali bisogna avere la grazia di abbandonarsi senza pentirsi subito dopo. Perché tu prima ci stai, perché capisci benissimo il disegno di tuo marito, e poi ricorri alla lingua della repressione, violentata, poliziotto. Ma perché? Tu ci stai e quindi va tutto bene. Perché se prendessi alla lettera le vostre parole, innamorati, io farei un grande errore, ovvero l'errore di guidarvi fuori dai vostri piaceri, perché la razionalità non ci entra. E invece la tua lettera è chiara. La tua lettera si lagna e si vanta, si indigna ma si compiace, protesta ma riafferma. È un momento di piacere così perfetto da aver voglia di raccontarla, ingaggiando noi tutti come voyeur della vostra camera da letto. Cara Barbara, io sono innamorata di mio marito e lui di me. Innamorati davvero, senza ambiguità. Ma per uno strano giro del destino, la sua ex, lasciata per me, si è messa con suo fratello e in ogni occasione sta fra i piedi. Ostenta con lui intimità e sottintesi, come se gli altri non esistessero e io per prima. Mio marito dice che nemmeno la vede, che non le dà il minimo incoraggiamento, che è patetica, che devo fare finta di niente. Ma quando lei lo abbraccia stretto come se lo volesse mangiare, o in macchina si precipita a sederglisi vicino, o con ogni pretesto gli stringe la mano, per me è sempre più difficile da sopportare. Asia. No, scusa Asia, io non capisco perché devi sopportare. Ma chi te lo fa fare, scusa, ribellati. Fai qualcosa, fai il contrario di lei, che conta sulla disinvoltura dei rapporti moderni per questo corteggiamento ipocrita e sfacciato, perché ci vergogniamo a essere ottocenteschi e dire: oh, ma tu che fai? Tieni la mano sopra la mano di mio marito, invece ci secca moltissimo. Io non ci posso credere nel far finta di niente. È un'imposizione tremenda il fatto di non dare soddisfazione, il gareggiare in falsità nel dare le famose frecciate. Ma che frecciate? La frecciata deve uccidere se la mandi. Questi balletti non li sopporto. Sono noiosi e sono vili. Essere diretta? Certo, se sei diretta rischi il ridicolo, perché l'ipocrita è sempre buon gioco. Tu dici: ma tu che vuoi mio marito? E lei ti sfodera in faccia un sorriso indisponente e dice: io? Ma che sei matta? Però ci sarebbe un modo teatrale e divertente per te. Comincia a imitarla. Comportati col suo ragazzo, cioè con tuo cognato, esattamente come lei fa con tuo marito. Rifai pari pari a specchio le sue parole e i suoi gesti. Lo abbraccia? Tu lo abbracci. Gli stringe la mano? Tu acchiappi la mano del suo uomo. Copi anche la sua espressione, fai proprio l'imitatrice, esattamente come fa lei. Naturalmente ci metti anche di tuo un certo tocco di comicità, cioè le fai il verso. Prendila in giro selvaggiamente, però con garbo naturalmente. Crea un po' di scompiglio, divertiti. Visto che il tuo distratto cognato neanche se ne accorge, infatti capisco il disprezzo soprattutto per l'altro cornuto, quello che non se ne accorge, no? E forse lei l'ha scelto solo per vendicarsi e disturbare il matrimonio di suo fratello. E guarda, ci sono degli illustri precedenti storici. Il Alexander Pushkin, che poi morì in duello con quest'uomo, il corteggiatore della moglie, quando proibì alla moglie di vederlo, questo sfacciatissimo corteggiatore, che tra l'altro era anche aveva la complicità dello zar, di tutta la corte, perché tutti volevano ridere alle spalle del poeta, cosa fa lui? Si inventa un amore per la sorella della moglie di Pushkin e gli va a vivere in casa, e infatti finisce con la morte. Cioè, non sono cose da riderci, sono cose che possono essere terribili. Beh, e tuo marito, no scusa, in tutto questo, tuo marito, i mariti sono sempre un fregio a bordo della lettera, non so perché, non hanno mai una parte da protagonisti. Bel tipo pure lui, è possibile che non sia capace di troncare l'equivoco? Cioè, un briciolo di malizia c'è da parte di lui. È vero che esistono facce toste fenomenali, come questa ex, però io credo che nessuno possa insistere in avance così scostumate se non sente un po' di complicità dall'altra parte. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. La mia ragazza è stata allevata dalla nonna vedova, agiata e con tanto tempo da dedicarle. Lei le vuole bene, ma è egoista. Per esempio, non bada se passa il Natale da sola. È l'unico lato sgradevole della mia fidanzata. L'ho rimproverata per questo, ma lei si mette a ridere. Io da estraneo ho notato delle sfumature della nonna, addirittura delle civetterie e una specie di amarezza quando la nipote va alle feste tutta bella e piena di corteggiatori. Ahimè, non so che farci se è così bella. Ho fatto una scoperta. Anche la nonna si sente donna. Ha 79 anni, è sempre ben vestita e spesso cambia pettinatura, ma nessuno lo nota. Insomma, la nonna ha nostalgia dell'amore. Il giorno di Pasqua ho architettato una bellissima burla. Le ho mandato un uovo enorme, di quelli che quando lo vedi in vetrina pensi: ma chi lo comprerà? Io, accompagnato da una lettera dove mi dicevo un suo ammiratore segreto. Descrivendomi timidissimo, le assicuravo che dopo aver osato tanto non mi sarei mai più manifestato. Insomma, le regalavo una storia immaginaria. Inoltre, sapendola a pranzo con la nipote, pregustavo la sua rivincita. Ho passato una giornata a studiarmi una calligrafia da uomo anziano e uno stile all'antica, finché ho confezionato un falso inattaccabile. Mando il pacco, ma che succede? La mia ragazza prende l'uovo, vede la lettera indirizzata alla nonna, la apre, capisce al volo che la cosa viene da me, straccia la lettera ed entra trionfante con l'uovo dicendo che lo avevo mandato io a lei. E poi mi fa una scenata in cui mi accusa di crudeltà, dicendo che la nonna avrebbe capito, presa in giro avrebbe sofferto e meno male che la cosa era caduta nelle sue mani. Così aveva potuto risparmiarle un dolore. Abbiamo litigato. Era una burla a fin di bene, non c'era alcun elemento di sfottimento e sono sicuro che invece è stata lei a privarla di una consolazione. La mia ragazza tiene duro, è arrabbiata, ma anche io. E vorrei sapere da te se è vero che appena una signora di una certa età riceve una lettera d'amore, pensa subito e solo a uno scherzo. Mi chiamo Gabriele, faccio il carabiniere. Caro Gabriele, questa tua lettera serve a sgominare per sempre, a spazzare via questa brutta abitudine delle barzellette sui carabinieri. Esistono dunque uomini dotati di una sensibilità femminile. Oh, e dicendo questo mi accorgo che riecheggio il sinistro complimento che ti fanno i maschi: intelligente per essere una donna. Io ti sto dicendo sensibile per essere un uomo, perdonami. Ma io ti abbraccio, fratello mio, nella burla. Tu sei un affiliato al segreto della trasformazione. La tua poi è del genere che mi piace di più. Ed è la burla rappresentazione del desiderio. E la burla rito propizio. Io, se avessi mezzi, farei solo burle, ne farei tantissime, semplici oppure complicate, ne farei tante che alla fine me ne sfuggirebbe il senso. Io la burla la immagino sempre comica e grande, dove alla fine ridono tutti. La tua ragazza ha fatto un peccato diffusissimo oggi, l'eccesso di tutela. Ha voluto tutelare la nonna da un momento di felicità. Comunque, chi agisce per il nostro bene di solito ci fa del male, perché chi agisce per il nostro bene non lo conosce. Tu dici se la nonna avrebbe capito comunque che era uno scherzo? Ma non credo, sai, perché sapessi che cosa non è capace di credere una donna. Io mai, ma neanche a 100 anni penserei che è uno scherzo. E comunque la tua ragazza soprattutto ha creduto di conoscere a memoria le reazioni della nonna, quando invece non ha capito nemmeno la propria, perché la tua ragazza è gelosa pazza. E ha ragione. Perché tu, Gabriele, sei innamorato della nonna. Cara Barbara, sto con una ragazza. Sono una ragazza, ma non è questo il problema, anzi, per 2 anni siamo state così bene. Ma adesso lei sta dimagrendo, mangia poco, e ho scoperto che quel poco poi va in bagno a vomitarlo. È l'inizio di una tendenza anoressica. Io voglio curarla. Lei dice che non ha bisogno di medici. Nega. Dice solo che è un periodo che non ha tanto appetito. Prima ci dicevamo tutto. Non ha più confidenza con me e questo è terribile. Che posso fare per aiutarla? Sandra. Ma se la vuoi aiutare, guarda, soprattutto non considerarla solo una malattia. Perché nell'anoressia c'è molto di più. Ci sono spinti emotivi che la rendono davvero pericolosa, ma anche molto seducente. Io immagino, Sandra, che se tu avessi voluto il parere di uno specialista ti saresti rivolta a uno psicologo o a un dottore, cioè gente che sa. Quello che ti posso dare io è una visione arbitraria, una visione visionaria di cosa ho potuto vedere nella mia esperienza su di me e sugli altri. e non dimenticare mai che le più grandi anoressiche sono state delle sante, come Santa Caterina da Siena, perché l'anoressia è una delle grandi utopie umane, come il volo. È la pretesa di ignorare il corpo, di superarlo. L'anoressico tende a diventare anima. Nell'anoressia c'è la sfida, una immensa testardaggine e un eroismo occulto. E prima di questa attuale abbondanza così equivoca, i giovani ribelli scrivevano versi, cospiravano, scappavano di casa. Oggi che tutto accade in TV, morta la passione, l'anoressico diventa un eroe della passività. E i più diabolicamente orgogliosi non si ribellano in corteo, ma in astinenza, nel gesto anarchico per eccellenza, il rifiuto. Non mangio, dunque non sono. Niente entra nel corpo. Non voglio essere al mondo. Mi ci avete messo, ma io non voglio. Non mangio, dunque non sono. E non siete neppure voi, perché vi odio dal primo all'ultimo. Quando non mangia, l'anoressico punta un dito implacabile verso chiunque lo circondi. Per questo la tua ragazza non ha confidenza con te. Il primo sintomo dell'anoressia è il solipsismo, è una passione segreta. L'anoressia è un chiamarsi fuori totale e somiglia all'eremitaggio. Solo che l'eremita è indipendente, cerca di fare meno di tutto, mentre l'anoressico è dipendentissimo e si consegna alla più indiscreta delle investigazioni, quella sullo stomaco. E poi l'anoressico pratica il ricatto più sottile, che è quello dell'assenza. Capisco la tua sofferenza, perché l'anoressia è il suicidio più offensivo nei riguardi di chi ci vuole bene. Ora, nessun caso è uguale a un altro. Certo, giova sempre il grande rimedio naturale, un interesse, arte, amore, che ne so, che riporti all'anima chi all'anima tende, ma senza fare meno del corpo. Devo dire che l'anoressia, se non fosse una tragedia, sarebbe anche un grande pretesto comico. Cioè, oggi che da noi quasi tutti mangiano, quasi, perché in verità non è così, ma comunque l'anoressia è un'epidemia tragica. Ma ai tempi della fame faceva ridere. Cioè, vai a spiegare a un affamato del Ruanda che da noi c'è questa malattia, che avendo tutto a disposizione una persona si ritrae e sceglie di assottigliarsi, di scomparire. L'anoressia nasce anche, può nascere, ci sono infiniti motivi, ma uno di questi, frequente, nasce come contrapposizione mistica al nichilismo di un'educazione tutta materialistica. Nasce come derisione del corpo e della carriera, rifiuto di partecipare all'indigestione dissennata di potere, di soldi, a questo grande arraffa. L'anoressico, la cosa grave e il motivo per cui è molto difficile entrare in contatto con l'anoressico e farlo desistere, è perché lui è dalla parte della sua malattia, ne è innamorato. Non è solo una malattia, è un vizio travolgente, è uno sprezzante piacere. Mi diceva una persona che ne era uscita, mi diceva l'estasi del vomito, col quale si butta fuori tutto, si sputa sul piatto del mondo, su questo benessere immaginario. Oggi c'è ogni bene, ma come a teatro i cibi sono di cartone. Una mia grande amica, che si chiamava Modestina Daroit, che purtroppo non c'è più, pugliese, ha avuto una figlia che adesso è un fiore di salute e di gioia di vivere, ha ingaggiato una grande lotta con la malattia, ma in un modo tutto suo, mi disse: io mia figlia l'ho guarita ammazzate. Non che le abbia mai messo le mani addosso, semplicemente non accettava il ricatto. Faceva finta, straziandosi, che tutto fosse come prima, si truccava, si vestiva, usciva, faceva il suo lavoro e poco a poco, in maniera abilissima, in maniera amorosissima, è riuscita ad aiutare veramente sua figlia. Ci savoie любви на Смоленской стоят, ci savoie любви у Никитских не спят. Часовые любви по Петровке идут неизменно. Часовым полагается смена. Ricordo una volta, per la processione di Ferragosto, avevo partecipato per la prima volta con le mie luci di cartone, col mio vestitino bianco da angelo, camminando come nell'antica Babilonia su un tappeto fittissimo di petali di fiori. Però dopo quella processione di Ferragosto io tornai felicemente a casa e invece scomparve un bambino. Era stato in fila a cantare quasi sotto la statua della Madonna e si era chinato a raccogliere anche un garofano, me lo ricordavo. I genitori lo cercarono. Il maresciallo andò fino al negozio del fotografo e si fece dare il ritratto del bambino scomparso, preso in gruppo dopo la prima comunione. La foto finì in un incartamento e le ricerche finirono in un verbale. La madre del bambino fece fare una novena perché si ritrovasse e qualcuno del paese andò a pregare. Ci andò anche la Nerina di Monfalcone, una forestiera molto pia che viveva in una casa piena di santi. La novena non servì a nulla. I genitori del bambino si rassegnarono. Ne avevano tanti di figli e non era difficile dimenticarne uno. Nessuno ne parlò più. Anche della Nerina di Monfalcone si parlò poco. Mangiava la roba del suo orto, la sera andava a pregare, nascosta da un velo, e poi dopo molti anni, quando si sentì male, aveva più di 80 anni, qualche vicino andò da lei in quell'aria molto pesante di fiori. Il prete le diede l'olio santo e l'assolse da ogni peccato. Prima di morire, la Nerina fece qualche smorfia e un sorriso, indicando una credenza piena di santini, ma nessuno le badò lì per lì. Dopo il funerale aprirono le finestre e bruciarono i santi. Aprirono la credenza. Dentro trovarono il bambino scomparso. Non era mai stato così bello. Dipinto con vernice dorata, un abito di pizzi bianchi e due piccole ali di cartone, con gli occhi spenti e le labbra rosse. La gente corse a vederlo e volevano portarlo in chiesa. Ma nonostante il paese mormorasse e ci fosse aria di rivolta, gli fecero l'autopsia. Il bambino era stato infilzato, ancora vivo con un ferro da calza come le farfalle, e poi impagliato, a maggior gloria di Dio e della Nerina di Monfalcone, che l'aveva fermato in un giorno di grazia prima che potesse crescere e macchiarsi di colpe, facendone un angelo prima che diventasse un uomo. Признаю только эти войска сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна. Часовые любви на Волхонке стоят, часовые любви на Неглинной не спят, часовые любви по Арбату идут неизменно, часовым полагается смена. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, mio marito mi aveva lasciata per un'altra, ma poi ha chiuso con quella donna, rivelatasi ninfomane e interessata. Soffro più che mai. Io rivoglio l'amore di mio marito, lo voglio riconquistare. Ho pensato di migliorare le mie scarse doti amatorie. Esiste una scuola seria di sesso? A me piace fare l'amore. E vorrei migliorarmi. Senti, Roberta, no. Che Dio ti salvi dalle scuole del sesso. In questo momento la migliore scuola è la spinta erotica che ti viene dal sapere tuo marito felice sessualmente con un'altra. Quello è un insegnamento, non teorico, sulla carne. Questo è un marchio e un suggerimento. Però ti voglio raccontare una storia che si trova in un libro che si intitolava L'ho fatto per amore. Ed è la storia di una moglie... anziana, a più di 56 anni, la quale scopre che il marito ha un amante. E ha un amante da tanto tempo. E si rende conto, ma d'improvviso. Lei si era sempre accontentata, eppure capisce che il sesso tra loro era sempre stato mediocre, meccanico, avaro, inesistente. E allora la donna ha una illuminazione. Cioè capisce che esiste una dimensione che lei ha sempre negato, che però suo marito ha conosciuto con un'altra. Nonostante... siano sposati ormai da 30 anni, lei